pomeriggio a tutti e a tutte, le 14 e un minuto primo. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza. Giovedì 3 settembre del 2009. Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. Tutte le informazioni le trovate sul sito della radio, sia www.ondarossa.info, con il link per riascoltare la puntata precedente, gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, e poi link per dare un'occhiata a news, interviste e recensioni, oltre alle segnalazioni dei film sul piccolo schermo per tutta la settimana da seguire. Andiamo a contattare oggi diversi ospiti, tutti i registi che sono presenti a Venezia, quindi cominciamo questa lunga carrellata. Rimanete lì. Bentornato Marco Simon Puccioni, ci sei? Sì, eccoci qui. Allora, intanto mi scuso pubblicamente perché sul sito avevo sbagliato a mettere il titolo del tuo documentario, che è Il colore delle parole e non Piede di Dio. Allora, di cosa si tratta? Parlacene un po'. Allora, Il colore delle parole è un documentario che ho girato di recente, che parla di alcuni scrittori, intellettuali, mediatori culturali, sindacalisti africani che vivono nel nostro paese da più di 30 anni. Sì. E si parla di loro, si parla di come sono venuti in Italia, di come era diversa la percezione dello straniero in Italia, nell'Italia degli anni 70, internazionalista, mossa da lotte politiche di ben altro tenore di quelle di adesso, e come poi la percezione dello straniero si è cambiata, diventati poi da studenti, persone, sono diventati vucumpra, extracomunitari e via dicendo, e poi si parla anche della loro cultura, della condizione di migrante. È particolare il fatto che appunto dopo 30 anni loro ancora non abbiano la cittadinanza italiana, nonostante che sono sposati con delle donne italiane, hanno dei figli italiani, nonostante per un motivo o per l'altro, non lo so, non sono ancora cittadini italiani. Senti, un piede dentro, un piede fuori. Queste differenze rispetto a 30 anni fa sulla presenza di migranti in Italia, che poi insomma sono diventati cittadini a tutti gli effetti, fanno una vita regolare qui, volevo chiederti quali differenze hai notato rispetto all'oggi, rispetto ai loro racconti, rispetto alla situazione di allora. La situazione di allora, innanzitutto l'immigrazione era appena iniziata, c'erano pochi stranieri in Italia, sì, sì. E quindi l'Italia non aveva nemmeno dei visti per far entrare le persone, loro arrivavano tranquillamente, normali, con l'aereo, e venivano qui a studiare per diventare la futura classe dirigente del loro paese. Sì. Ed erano delle persone, avevano amici italiani, erano molto, facevano una vita direi così come altri studenti, poi sono coinvolti sempre di più anche nelle lotte politiche in Italia, hanno vissuto la vita in Italia, e poi man mano che la migrazione invece è andata aumentando di numero, e quindi si è arrivati poi a quegli episodi che sono rimasti famosi, no? La nave degli albanesi che cadono nel porto di Bari, o finalmente poi insomma anche la morte di Gerry Maslow, che si può dire è stata anche quello che ha spinto il governo italiano a fare la legge Martelli, che sono le prime norme urgenti sull'immigrazione. Purtroppo appunto sembra che in Italia sia sempre necessario un morto per fare qualche cosa. Sì. si vive sempre di emergenza, non si affrontano mai le cose con la lungimiranza, con uno sguardo verso il futuro, che pensi insomma di strutturare il futuro con un progetto, invece si reagisce sull'emotività, sull'emergenza, e questo è un problema sia per affrontare il tema dell'immigrazione sia quello della cultura, che sappiamo appunto questo governo, anche i precedenti forse, hanno visto insomma un po' come un peso, come una spesa da tagliare, non come un investimento per il futuro del paese. Sono abbastanza simili i temi, trovo, quello della cultura e quello dell'immigrazione. Sono due elementi strutturali della nostra società che il governo non sa gestire. Marco, come hai scelto i tuoi interlocutori e dove hai svolto le interviste? Il primo interlocutore è Teodoro Njokengana, poeta, narratore, intellettuale camerunense, che ho conosciuto tramite amici perché faceva il lavoro nelle scuole di narratore di griot. Con lui ho deciso di tornare in Camerun, dove lui mancava dal momento della partenza, quindi da 34 anni, 35 anni che mancava dal suo paese, e ho fatto questo viaggio di ritorno del migrante, che è sempre un viaggio molto emotivo, uno che torna nel proprio paese, nel proprio villaggio dopo 30 anni di assenza. Poi dopo, tornando in Italia, lo sguardo si è allargato ai suoi compagni, e quindi ho visto un pochino più anche cosa è stata la formazione della comunità africana in Italia. Volevo sapere, rispetto invece al loro punto di vista, come che indicazioni ti hanno dato, come affronterebbero loro la questione migrazione qui in Italia, quali sono le cose che criticano rispetto al modello che vedono? Che diciamo le nostre leggi spesso si occupano molto dei clandestini e poco degli immigrati, quindi si occupano un po' su come limitare la presenza di criminali, di clandestini, di persone che arrivano in modo avventuroso, e poco di strutturare la presenza migranti in Italia in modo stabile. E poi un altro elemento che mi sembrava molto giusto è chi fa le leggi sull'immigrazione dovrebbe farle in collegamento con quelle sulla cooperazione, cioè la cooperazione per lo sviluppo e la legge sull'immigrazione dovrebbero andare un po' di pari passo, proprio perché se si vuole regolare un po' l'afflusso di immigrati in Italia si dovrebbe intervenire anche nelle zone di provenienza, e proprio perché comunque determinare un numero di persone che devono venire che è insufficiente rispetto alla richiesta di partire di là, perché lì ci sono delle situazioni particolarmente drammatiche, significa appunto creare la base per la migrazione clandestina, che poi finisce nelle mani sbagliate, con le tragedie che sappiamo. Quindi diciamo un primo importante suggerimento è quello di collegare le leggi che regolano l'immigrazione con le leggi sullo sviluppo e la cooperazione internazionale. Marco, tu adesso alle 15 avrai la conferenza stampa di presentazione a Venezia. Volevo dirti, già ci sono indicazioni rispetto a un'eventuale distribuzione del tuo documentario? Il film è stato preso in distribuzione dalla Movimento Film, che sì, è la nuova casa di distribuzione che ha distribuito sia il mio lungometraggio Riparo, che è stato il primo film che ha distribuito, poi successivamente anche i film di Sakurov e di Vaida, e adesso distribuirà anche Il colore delle parole, che essendo un documentario probabilmente seguirà un percorso diverso. E in rete c'è qualche riferimento? In rete intanto si può vedere qualche trailer, un trailer su YouTube, basta mettere Il colore delle parole, Puccioni o nomi o qualcosa che è riferimento, e bene, fuori. Bene. Si possono vedere 3 minuti, una clip di 3 minuti. Marco, in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Grazie. ciao. Marco Simon Puccioni, regista del documentario Il colore delle parole. Andiamo avanti. Benvenuto a Pasquale Marrazzo, regista di Sogno il mondo il venerdì. Eccoci qui. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, grazie. Allora, lo scorso fine settimana è uscito il tuo film. Sì, è uscito il 21, il weekend del 21 agosto, insomma, nel pieno della calura romana, insomma. Comunque siamo contenti. In quante copie? No, per ora siamo usciti in due copie, Torino e Milano, Torino e Roma, Torino. Però a ottobre usciremo poi a Milano, a Napoli, a Firenze, Bologna e probabilmente Palermo, poi mano a mano ci estenderemo per tutta la penisola, insomma. Primi riscontri di queste due settimane? Ma guarda, io sono molto contento, a parte a Locarno che è andata benissimo, il pubblico l'ho accolto con molto entusiasmo il film. È un film particolare, insomma, c'è anche un musical, no? Un musical drammatico, come lo definisce anche Maurizio Porro, un musical neorealista. Credo che sia l'aggettivo più giusto per definire il film. E no, io sono molto contento, perché nonostante il caldo, Roma, il film si è difeso bene e è ancora all'insalto. Speriamo che lo lascino ancora. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente descriviamo un po' l'oggetto in questione. Raccontacelo un po', Sogno il mondo di il venerdì. Allora, io ve lo racconto in due battute. Sì, certo. È un film corale, sono più storie che si intersecano tra di loro, con un unico baricentro che è poi una sorta di cortile dove girano attorno questi personaggi di varie etnie e di varie stazioni sociali. E dove si svolge? Si svolge a Milano, nella zona della Bovisa, una zona che sta cambiando pelle, che sta avendo una profonda trasformazione da una zona di operai, è diventata fra il radical chic e gli immigrati, no? Per cui c'è una profonda dicotomia, insomma, in questa dimensione. Insomma, un po' come Roma potrebbe essere la zona di Piazza Vittorio, insomma, sì, un po' più brutta, perché Milano è molto molto più brutta di Roma, per cui insomma il paragone diventa difficile farlo. Comunque così. La genesi? La genesi in che senso? Del film. La genesi del film, come la potrei dire? Tu non l'hai visto il film, giusto? No, purtroppo no. Dovresti vederlo, insomma. Comunque il film nasce da un'esigenza, diciamo così, di raccontare un po' quello che è la realtà, quella soprattutto di Milano, di certe parti della città dove si tende a nascondere tutta una realtà che è lì che si ti viene sbattuta in faccia attimo per attimo. Sì. E Milano in questo senso è una città che si presta molto per queste cose, perché se Roma è una città che è un bel contenitore dove anche il brutto in qualche modo viene aiutato dalla bellezza della città, Milano in questo senso non ha questa forza, quindi lo squallore è molto più forte, dirompente. Se sono un napoletano, ma nato, cresciuto e vivo ancora a Milano, questa cosa mi rende molto così partecipe, ecco. Senti, e questo viaggio cosa ti ha fatto scoprire di questa realtà che volevi riprendere? Ah, mi ha fatto scoprire una cosa che già l'avevo sperimentato con i film precedenti, a Sud e Solenne e Veloci, che quando si presenta un film, no? Sì. Vedi proprio le facce delle persone che si trasformano, no? Cioè persone che riconoscono questa realtà e quindi se ne fanno carico e riescono, come dire, a emozionarsi fortemente, perché questo è un film molto emotivo, non è un film razionale, studiato, è un film fortemente emotivo. E poi quelli che invece ce la rifiutano, quelli che hanno un atteggiamento borghese verso la vita, che rifiutano l'esistenza di, è come se molta gente si dice, ma veramente esiste questa realtà? Ma certo che esiste questo e anche peggio, no? Per qualcuno sembra quasi un altro mondo, in realtà è il mondo dove noi viviamo noi. Ma detto questo, però, questo è un film d'amore, perché ho evitato in tutti i modi di creare di fare un film sociale, ecco, perché è una roba che mi disturba, no? Perché sembra quasi fare il temino al liceo piuttosto che la piccola tesina all'università. È un film corale sull'amore, sull'esigenza e l'urgenza d'amore, ecco, questo ci terrei molto a dirlo. Ecco, quindi spiegami un po' meglio questa lettura che dai dell'amore, la necessità dell'amore? Sì, la necessità dell'amore, perché credo che il motore portante, diciamo così, parlando in modo abbastanza idealista, è l'amore, no? Quando si hanno dei rapporti affettivi sani, quando c'è amore fra le persone o comunque un atteggiamento propositivo, anche la povertà, condizione che io conosco molto bene perché vengo da una famiglia poverissima, sì, ti fa in qualche modo vivere bene la vita. Cioè sì, io quando ero bambino, una famiglia di 11 figli, insomma, ho avuto tante difficoltà con loro, però devo dire che non sentivo il peso, perché i miei genitori sono stati delle persone eccezionali, i miei fratelli e le mie sorelle persone molto belle, quindi sì, sentivo a volte difficoltà a voler comprare qualcosa e non lo potevo fare, però in ricambio c'era questo rapporto nella famiglia che era molto intenso, forte, insomma, quindi ripagava un po' di tutto, ecco. Senti, nell'interazione con il pubblico che riscontri hai avuto? Ma io credo che c'è una parte di pubblico che proprio si emoziona anche fino alle lacrime, uh-huh, e altri ne rimangono un po' distaccati perché il musical è una forte novità per l'Italia, poi come l'ho realizzato io è veramente nuovo, sì, non c'è qualcosa che possa fare riferimento a come io ho creato questo musical, sì, per cui può rimanere un po' così, generalmente è buona. Beh, per non dire molto buona, poi ci sono persone che non l'accettano, insomma, voglio dire, le reazioni sono molteplici come un film. I film, quando le persone vanno a vedere, diventa di ognuno di noi, ognuno si rapporta al film in modo personale, e che c'è chi vede qualcosa, che vede, addirittura sento dirmi delle cose che io manco l'avevo pensato mentre realizzavo il film, perché ognuno appunto guarda il film con i suoi occhi e lo fa, come dire, filtrare attraverso il proprio cuore, no? Bene, bene. Senti Pasquale, allora in bocca al lupo per le prossime città in cui uscirà il film, e a risentirci alla prossima. Vi ringrazio, se potete andare oggi al cinema fate bene, perché magari lo tengono ancora qualche settimana. Bene, va bene? Bene, bene. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio, ciao. Ciao. Pasquale Marrazzo, regista del film Sogno il mondo il venerdì. E noi si prosegue. Bentornata Marina Spada. Grazie, oh, ciao Federico. Eccoti qui. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Allora, ieri sono andata a Venezia in giornata e sono tornata, e poi tornerò sul 7. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo sentito parlare di Milano prima da Pasquale Marrazzo, e ora stiamo chiamando Milano perché sei a Milano. Raccontaci un po' allora del tuo Poesia che mi guardi. Dunque è un lavoro su Antonia Pozzi. Chi è, sì, Antonia Pozzi? Grande poetessa del Novecento, ritenuta oggi una delle alte più voci del secolo, non solo al femminile, che scrive fra il 29 e il 38, sì, dopodiché muore ad anni 26, purtroppo tragicamente suicidandosi, e devo anche aggiungere che nei profondi e tremendi anni 30, come dire, ce ne furono tanti di suicidi di giovani, in cui non veniva, come dire, perdonato il disagio, se così si può dire. Poi in pieno regime, poi comunque, tra l'altro. E certo, per questo è chiaro, sai, sì, i venti di guerra. Sì. Marina, ma la poesia è sempre stata una tua passione? Sì. Il mio primo film si intitola Forza Cani, sì, titolo di una poesia di Nanni Balestrini, sì, il secondo Come l'ombra, tratto dal verso Come vuole l'ombra, che è tratto sempre a sua volta da una poesia di Anna Akhmatova, che è del 22, si intitola Molti, e questo si chiama Poesia che mi guardi, ed è un verso tratto da una poesia di Antonia Pozzi dal titolo Preghiera alla poesia. È stato scelto questo titolo perché è un lavoro sullo sguardo, in verità, sullo sguardo poetico, sullo sguardo, eccetera, insomma. È un film che parla della necessità della poesia, non è che la scusa, capito, è Antonia Pozzi, perché viene narrata la storia dell'Antonia, ma viene narrata, come dire, la storia della Milano di quel periodo, viene narrata la storia poi parallela di questi ragazzi che esistono, che si chiamano H5N1 ed è un gruppo dell'Università di Pavia di studenti di medicina che fa poesia d'amuro, di apostrofo amuro, mm-hmm. Il verso a d'amore ovviamente, e attaccano questi foglietti tutti scritti per Benino in giro per la città con sulle loro poesie firmate anonimamente H5N1. H5N1 è la formula della diaria, quindi essendo loro medici l'hanno chiamata così, che vuol dire loro credono nel contagio poetico, ecco. Senti, sul personaggio avevi già una grossa preparazione, oppure approfondendola hai scoperto delle parti della personalità e anche dell'opera che ti hanno particolarmente incuriosito o affascinato? Beh, diciamo che io la conoscevo, ma sì. Sai, conoscere un artista avendo letto 10 poesie, sapendo vagamente un po' la sua vita, narrata anche in maniera banale, è una roba. Sì. Quando si affronta un lavoro tendenzialmente bisogna studiare a fondo ciò, certo, di cui parli, certo. E quindi ci ho messo 3 anni, insomma. Tra l'altro sono stata, come dire, coadiuvata anche da questa amica che ha scritto con me questo lavoro per 3 anni e, come dire, abbiamo affrontato questo lavoro insieme, ecco. Mm-hmm. Senti, come si è svolta questa ricerca di 3 anni? Come, quali testi siete andate a verificare e come avete costruito poi la sceneggiatura? Molto avuto a che fare con la sua biografa ufficiale. Mm-hmm. Che ha pubblicato una biografia scientifica su di lei straordinaria di 300 e rotte pagine che si chiama Per troppa vita che ho nel sangue, su di lei si chiama Graziella Bernabò, che ci ha messo 5 anni a scriverlo. E poi credo sia, se ricordo bene, ne è stato fatto anche uno spettacolo teatrale. Sì, cioè traendo delle cose. Sì, eh? Sì, sì, sì. E poi Onorina Dino, che è la persona a cui sono state lasciate per testamento, diciamo, è stata lasciata la cura delle opere, la memoria di Antonia Pozzi. Mm-hmm. E quindi, come dire, ho potuto accedere ai suoi album fotografici, ai suoi scritti autografi, alle, come dire, ai ricordi di questa persona che non ha conosciuto Antonia Pozzi, ma ha conosciuto la madre, mm-hmm. che è morta, credo, nell'80 o nell'81, ultra novantenne. Mm-hmm. Marina, l'universo della poesia al femminile oggi, cosa vedi di buono, quali sono i problemi, quali caratteristiche? Ma sai, più che la poesia al femminile è la poesia, cioè, come disse Montale quando andò a ritirare il Nobel, fece un lungo discorso, sì, sul senso della poesia, ma soprattutto disse la poesia non ha mercato. Quello sicuramente. Ecco, quindi, come dire, in un mondo mercificato la poesia è veramente l'espressione del sé, sì, gratuita, sì, capito? Sì, e sì, secondo me c'è bisogno di gesti gratuiti, non monetizzabili, no? Sì. E poi sai, comunque i poeti sono, diciamo, una presenza importante per la società, ma questo fin dall'antica Grecia, no? Quando, sì, a un certo punto ci si divide fra filosofi e i poeti. I poeti dicono la verità, i filosofi cercano di spiegare il rapporto dell'uomo col mondo e di spiegare il mondo, quindi, come dire, in termini razionali peraltro, sì, i poeti sono quelli che camminano sul burrone, sull'orlo del burrone, ecco, questo da sempre, infatti sono anche poi immagini di persone anche in parte emotivamente disturbate, in parte, non so, Dino Campana, Silvia Plath, Anne Sexton. No. Sì, sì, sì. Senti, e le sue opere. Suicidi, ecco. Scusami? E spesso anche suicidi. Ah, beh, sì, sì, sì, sì. Volevo chiederti, le sue opere sono reperibili con difficoltà? No, assolutamente, nel senso che in occasione del 70° della morte, che ricorre, lei è morta nel 38, sono stati ripubblicati i diari, gli scritti, i suoi epistolari e poi c'è questo libro che è Parole, edito da Garzanti, dove c'è tutta la sua opera omnia, insomma, poetica, anche con gli inediti, perché poi Onorina Dino si è data come dire, si è data da fare sugli scritti autografi, anche perché devi sapere che il padre, quando lei è morta, ha ritoccato le sue poesie. Ah. Dopodiché, messe le mani sui manoscritti dopo la morte del padre, adesso, come dire, sono nella sua versione originale. Bene. Lo vedremo presto, sai già qualcosa, c'è qualcosa che ci puoi dire rispetto a una eventuale programmazione o passaggio televisivo? Beh, guarda, no, non sappiamo ancora niente, aspettiamo di vedere come andrà Venezia. Venezia viene presentato il 9 alla stampa e l'11 al pubblico, e poi sarà dentro il programma Venezia a Milano e Venezia a Roma. Sì. E poi intanto vedremo un po' come va. È chiaro che cercheremo venditori, acquirenti, eccetera. Insomma, sai bene, voglio dire, io ho fatto un film di poesia su una poetessa morta suicida nel 38. Voglio dire, in un momento in cui l'aspirazione massima è ammassarsi di risate per evitare di guardare la realtà, capisci che non è anche lì una roba molto vendibile, volendo. Sì. Vorrei fare anche un passo all'indietro, ossia come l'ombra. Il risultato del film ti ha soddisfatto? Di come l'ombra? Sì. Beh, voglio dire, direi di sì, nel senso che, sai, un film che è nato, come tu ben sai, con pochissimi soldi, che io ho preso in prestito a una banca, ho portato a casa 18 premi, non tutti importantissimi, ma per la maggior parte sì, fra cui questo premio che stavo svenendo, dato alla miglior regia al Festival di Mar del Plata, che è uno dei 6-7 festival più importanti del mondo. Come dire, e poi comunque è stato acquistato da Sky e dalla Rai con una piccola cifra, ma voglio dire, io sono comunque molto contento. È stato anche distribuito nei cinema, a Milano è rimasto 4 mesi. Quindi, insomma, come dire, visto il panorama, bisogna essere molto felici. Eh sì. No? Certo. Anche perché, voglio dire, film buoni ne vengono fatti sempre. Il mio è stato molto fortunato. Altri non lo sono stati così, pur valendo. Marina, allora, dimmi. In bocca al lupo per l'avventura veneziana, e spero poi di sentirti in occasione di un'eventuale uscita. Speriamo. Grazie Federico. T'abbraccio, ciao. Ciao caro, ciao. Marina Spada, regista del film Poesia che mi guardi. Andiamo oltre, questo è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza, giovedì 3 settembre del 2009. Regista del documentario di me cosa ne sai, ci sei, eccoci. Eccomi qua. Bentornato, anche perché tu eri stato già qui sempre in collegamento telefonico per il tuo film. Sì, infatti. Com'è andata poi? Beh, direi bene dal punto di vista dei, insomma, festival, recensioni, eccetera. Poi dal punto di vista della distribuzione è tutto un altro discorso. Sì. Tra l'altro, appunto, e anche in base a quell'esperienza che poi mi è venuta voglia di fare questo documentario, no? Che questa indagine che è partita da un qualcosa di molto piccolo, cioè la difficoltà, la durezza del nostro mestiere di registi oggi, e poi è andata man mano allargandosi a qualcosa di più ampio, no? Sì. Non so se voi avete visto il film, ma insomma... No, io no, purtroppo ancora. Però diciamo il film racconta, è un'inchiesta amorosa, l'abbiamo definita, cioè ci si chiede a un certo punto appunto perché è difficile fare questo mestiere, perché è difficile fare cinema quando appunto in Italia fino a un po' di anni fa il cinema era assolutamente invece qualcosa di molto forte, di molto centrale nella vita culturale di questo paese. E quindi facendo questa indagine, seguendo appunto dei colleghi e dei percorsi di vita e di professione così difficili, siamo arrivati poi a fare un piccolo ritratto di 30 anni di vita culturale di questo paese, quindi dagli anni 70, riprendendo un po' le mosse da un documentario fatto da Bellocchio, Rulli, Petraglia, Agosti, che era La macchina cinema del 78. Da allora, caso veramente particolare, nessuno aveva raccontato il cinema italiano, nessuno si era chiesto perché il cinema italiano si era in qualche modo eclissato e aveva perso la sua centralità, la sua forza anche a livello internazionale. E quindi come un gesto d'amore ma anche di desiderio di conoscenza, di rappresentazione del nostro paese, abbiamo voluto che per una volta fosse il cinema a raccontare il paese, a raccontare la televisione, a raccontare un percorso culturale che il nostro paese ha fatto in questi 30 anni. E in qualche modo è una storia di una sostituzione, cioè la domanda che poi viene fuori alla fine del film credo che sia: cos'è che ha sostituito il cinema e se la qualità del nostro cinema, appunto, che era un cinema di grandi autori ma anche di grandi successi internazionali, di film popolari, di film che vincevano i festival, di film che venivano visti dalle platee di tutto il mondo, ecco, cosa l'ha sostituito questo e perché? Perché è stato sostituito? Perché è stato chiuso quel cinema, no? Sì, sì. E sì. Quindi l'intreccio diventa un film estremamente, secondo me, politico in un senso profondo, nel senso non un film schierato a tesi, sì. È un film che racconta dei fatti, li mette in fila, fa una scelta di fatti e da questo viene fuori un ritratto, secondo me, abbastanza inedito, originale di questo paese, insomma. Ecco, per esempio, un momento molto bello secondo me del film è quello di abbiamo preso alcune vecchie interviste di Fellini, sì. E del suo della sua causa con Berlusconi, sì. Ai tempi delle interruzioni pubblicitarie dei film, eccetera. Ecco, una vicenda che all'epoca fu magari vissuta come qualcosa di abbastanza periferico, poco centrale, che magari interessava appunto soltanto alcuni autori della vecchia guardia, e che oggi, rivista con quegli accenti, con quei toni così avvincenti, così coinvolti di Fellini, colpisce molto, perché appunto si capisce che quegli anni erano gli anni di un grande bivio culturale per questo paese. Sì, sì. E poi abbiamo imboccato una strada forse sbagliata, che è quella in cui ci ritroviamo oggi, con appunto un patron delle televisioni che è il nostro Presidente del Consiglio. Sono stato appena a vedere l'anteprima di Videocracy. ecco. Io credo, fra l'altro, interessante questo fatto, cioè io non sapevo nulla di Videocracy, immagino che loro non sapessero nulla di noi, anche se il nostro è un film che ha un percorso molto lungo di circa 4 anni, di inchieste, di ricerche, eccetera. Ma è interessante che appunto il cinema siano nate due opere cinematografiche che tutte e due nascono come critica alla televisione, come indagine e richiesta di maggiore trasparenza, no, al potere televisivo. Sì. Che è quello che nel quale noi siamo stati immersi negli ultimi 30 anni. Che poi calcola che, insomma, noi sentiamo in trasmissione continuamente autori, registi, produttori, attori, e questo discorso sulla televisione, su su come spesso si è costretti a lavorare in televisione per vivere, ma si vorrebbe fare cinema, è molto diffuso. Ma ecco, diciamo, questo è il problema della qualità, è il problema della visibilità, è un problema molto forte, no? Cioè, sì. Noi vediamo molto spesso nei giornali un attacco al cinema italiano, ed è una cosa paradossale, no? Perché il giornalismo italiano è uno dei giornalismi più sovvenzionati del mondo, che vive grazie alle sovvenzioni dello Stato, e 30 milioni di euro che vengono dati a Cina vengono demonizzati, no? Mm-hmm. E questo è un altro degli elementi che viene fuori dal nostro film, credo, cioè che siamo un paese vecchio, in quanto c'è tutto un establishment legato proprio alla carta stampata, che ancora non ha voglia di considerare come cultura reale l'immagine. Mm, no? Sì. E questo lo sconta anche la sinistra, che ha appunto purtroppo sottovalutato forse un certo tipo di regolamentazione che andava data alle televisioni e al loro impatto culturale, no? Ecco, quindi è chiaro che quando non ci sono soldi per fare film, il film è in fondo cos'è? Un film è una rappresentazione complessa della realtà, un film è, sì. È un tentativo di racconto della vita e di qualcosa che vada al di là appunto dell'articolo di cronaca o del telegiornale, e quindi il fatto che si vada contro ciò che è complesso è un segnale inquietante. Sì, poi sì. Un film è anche è fatto di incontri di registi con sceneggiatori, di sceneggiatori e attori e troupe, e da questi incontri nascono appunto delle sintesi originali, degli elementi di novità nella percezione della nostra vita, no? Quindi sono momenti importanti di libertà, sì. Di conoscenza. Appunto, io credo che una delle tristi, se vogliamo, conclusioni di questo viaggio che è stato il nostro film sia appunto la consapevolezza che in fondo eravamo più liberi negli anni 70 che oggi, perché avevamo comunque un cinema estremamente libero, estremamente autonomo, sì. In grado di fare film corrosivi accanto agli spaghetti western, di fare film che attaccavano il potere accanto a commedie all'italiana però altrettanto originali, e che avevano il gusto della rappresentazione di personaggi e macchiette tipiche italiane nostre, no? Ecco, quello che ha sostituito questa grande energia, questa grande originalità che il nostro cinema esprimeva è un'immagine molto spesso pallida, spesso, se pensiamo anche alle fiction, spesso abbiamo una grande in fondo un grande livellamento imitativo, e a volte spesso vengono ripresi personaggi del passato, addirittura rifatti a livello molto più basso, no? Dei film che erano fatti negli anni 70, negli anni 60, sui stessi personaggi, con un'estetica televisiva francamente molto più bassa, insomma, sì, no? Sì. Valerio, mentre mi citavi quel lavoro del 78 di Bellocchio, mi sono venuti in mente però anche un altro paio di documentari di questi ultimi anni. Uno è un documentario di Giovanna Taviani e l'altro Gli Invisibili, un altro documentario ancora, che è un po' una riflessione del nostro cinema delle nuove generazioni. Volevo chiederti, rispetto al tuo lavoro, prima hai citato Fellini, quali materiali e quali sono state i tuoi referenti in questa ricerca? Ma, guarda, noi abbiamo diciamo chiaramente visionato grandi quantità di materiale nell'Istituto Luce, che è il coproduttore del film, e negli archivi RAI. Il film spazia da un frammento di un grande documentario di Vittorio De Seta, che sono I Dimenticati, a tutta una serie di appunto materiali di repertorio della RAI che riguardano Fellini, Berlusconi, momenti importanti appunto della, di questo percorso dagli anni 70 a oggi. Il film poi è scandito, diciamo, da alcune sequenze che sono, per esempio, non so, siamo andati fuori a Cinecittà con la folla di ragazzi che va a fare il pubblico di Amici, no? Sì. Per chiedergli no, cosa conoscono del cinema, cosa conoscono, ecco, uno dei momenti credo più struggenti del film, che racconta questo duello a distanza tra Berlusconi e Fellini, e tornare appunto a 30 anni di distanza fuori da Cinecittà, nel Teatro 5 che era di Fellini, c'è Amici della De Filippi, e nessuno dei ragazzi che è lì fuori sa anche neanche chi è Fellini, no? Ecco, quindi cioè, c'è un problema di identità, di memoria, sì. che è legato proprio al modo in cui questo paese si è evoluto dal punto di vista culturale, o involuto, mm-hmm. E che credo che investa anche appunto proprio non soltanto appunto chi fa cinema, chi fa televisione, ma anche chi fa giornalismo. Mm-hmm. Infatti il film finisce, non dico come, ma con un'altra sostituzione, cioè negli studi Safa Palatino a Roma, che erano gli studi storici dove si faceva cinema dall'epoca del muto, oggi c'è il TG5. Mm-hmm. Ecco, cioè finisce con una scena abbastanza diciamo forte su un certo tipo di arroganza e di mancanza di trasparenza, mm-hmm. Della televisione e dell'informazione oggi. Mm-hmm. Valerio, in chiusura, tu sei impegnato nelle riprese di un tuo film? Sì, sono impegnato con la ripresa di un film con Valeria Golino e Vincenzo Amato, che racconta una scuola alla deriva, una scuola pubblica un po' sui generis, ma che in realtà è poco conosciuta, poco raccontata, mm-hmm. Molto lontana dalla scuola della televisione. Sì. Ma appunto, siccome io sono anche un professore e ho conosciuto proprio come mia esperienza personale appunto questo tipo di scuola delle periferie romane, racconto una realtà di una scuola che è quella che interessa il 70-80% dei ragazzi, cioè non una scuola borghese, non una scuola per liceali, diciamo, ma una scuola pubblica che tradisce, secondo me, le promesse fondamentali di quello che dovrebbe essere una scuola per tutti, insomma. In qualche modo c'è un collegamento appunto tra i due film, per quanto c'è un grande tradimento culturale che è stato operato in questi anni, e credo che questo paese sia diventato un paese di estrema destra, di estrema destra dal punto di vista culturale prima che politico, sì, in quanto sì. Appunto, se una scuola pubblica non riesce a dare a chi ne ha più bisogno gli strumenti per comprendere la realtà, gli strumenti per diventare diversi dai propri genitori e migliori dei propri genitori, è un paese che non ha un futuro brillante davanti a sé. Valerio, su queste parole noi ci salutiamo e in bocca al lupo per il documentario di Me Cosa Ne Sai e anche di questo film. C'è già un titolo? Il titolo provvisorio è L'aria. È L'aria, ok. Allora un abbraccio e spero a presto. A presto, grazie. Ciao Valerio. Ciao, ciao. Valerio Ialongo, regista del documentario di Me Cosa Ne Sai in programmazione alla festa, alla mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia. benvenuto Stefano Consiglio, regista del documentario L'amore basta, sempre in clima veneziano, che è in treno. Ci sei? Ci sì, senti? Sono. Eccoci. Spero che vi sentiate anche voi, malgrado un po' di casino del treno, ma insomma. Ok, stai andando proprio a Venezia, mi sa, o no? Sì, sto andando a Venezia, dove domani alle 5 di pomeriggio viene proiettato davanti al pubblico questo film, appunto si chiama L'amore basta. Sì. E come forse saprai, perché l'hai visto, racconta 9 storie in giro per l'Europa di coppie gay e lesbiche che si amano. Sì. Vivono insieme, sono una coppia, una famiglia, secondo di come loro preferiscono chiamarsi. In particolare Francia, Italia e Germania, se non ricordo male. E Spagna soprattutto. E anche Spagna, certo. Che è certo. L'ultima certo. Delle storie, ma la più lunga, e anche appunto sì. Là si capisce il vero salto di qualità. La storia del matrimonio vero e proprio che è possibile fare, contrarre tra persone dello stesso sesso e quindi relativa possibilità di avere bambini con patria o matria potestà a secondo delle. Pronto? Sì, pronto, eccoci. Mi senti? Sì, ti sento. Allora, due aspetti, uno l'hai già citato tu, in particolare su cui si sofferma il tuo film, intanto la questione figli, perché alcune coppie lesbiche, alcune coppie omosessuali, gay, hanno... Ecco qui, è saltata la linea. Proviamo a ricontattarlo. Ti stavo dicendo, Stefano, che sei tornato in linea fortunatamente. Allora, sì. È uno degli aspetti, dei due aspetti fondamentali secondo me nel tuo documentario, ecco, intanto quello dei figli per quanto riguarda sia le coppie lesbiche che le coppie omosessuali gay. E poi un'altra cosa è che si tratta di tutte coppie rodate che stanno insieme da parecchi anni. Guarda, io quando ho cominciato questo film, quello che volevo raccontare erano delle storie d'amore. Allora, una storia d'amore naturalmente può stare in piedi da un anno o da 30, come succede anche nel film della coppia di Gino e Massimo che stanno a Palermo. Sì. Quindi la cosa che mi interessava era semplicemente che tra queste due persone ci fosse un progetto di costruzione dell'amore, ecco. Sì. Poi naturalmente quelli che stanno insieme da un anno, forse durerà 15 o forse no, ma insomma l'intento il loro amore portava a questo, come dire, a questa prospettiva di futuro. Mm-hmm. E altri questo futuro l'hanno raggiunto, ce n'hanno ancora un altro perché stanno insieme da 7, 14, 20, 30 anni a secondo appunto delle condizioni e della loro fortuna sentimentale, per così dire. Oh, per quanto riguarda i figli, incontrano le coppie un po' in tutta Europa le medesime difficoltà sia per l'adozione che per il parto. Assolutamente, a parte il caso della Spagna, dove appunto con la legge sul matrimonio possono fare assolutamente quello che vogliono. Sì. Nelle altre parti direi che anche se la legislazione è un pochino più avanzata di quella dell'Italia, ma insomma il tema dei figli si pone come anche nella Francia, che sappiamo appunto che addirittura quella coppia racconta che hanno dovuto andarlo a fare all'estero e non hanno potuto adottare perché poteva adottare solo una delle due, insomma. Mm. In Germania altrettanto, eccetera eccetera. Oh, un altro aspetto che mi ha incuriosito e che ricorre un po' in tutte le storie è che si tratta di coppie fedeli, nel senso non è contemplata la coppia aperta in queste coppie omosessuali. Ma guarda, questo in alcune che così con cui mi è capitato di girare, che poi non ho montato per tanti motivi, così questo talvolta è contemplato molto meno di quello che pensiamo. Sì, infatti. Ma il punto fondamentale che mi ha molto colpito, no? Io in realtà non ho voluto fare un film sull'omosessualità. Sì. Ho voluto fare un film proprio su delle storie d'amore. Esatto. Che naturalmente era una storia d'amore tra due persone dello stesso sesso. Sì. Ma la cosa che mi ha molto colpito e che il film rimanda con una certa forza è la gioia di queste persone. E naturalmente è un po' come l'amore romantico di una volta, no? O più un amore contrastato. Lo stiamo riperdendo? Forse l'abbiamo già perso. Proviamo allora, ecco, a ricontattare Stefano. Uscito nuovamente da una galleria, Stefano. Eccoci, ecco. Di nuovo, sì. Allora, dicevi. No, quello che volevo dire appunto è che, come forse, insomma, io non volevo fare un film sull'omosessualità, sì, ma sì, sulle sì, storie sì. d'amore. Ecco, la cosa che mi ha molto colpito e che trovo che il film rimandi con una certa forza, una certa gioia, che quando gli amori sono difficili, e gli amori nelle coppie omosessuali sono più difficili per tutti i problemi che. Ah. Niente. Attesa di rimetterci in collegamento con Stefano Consiglio per finire di parlare del suo documentario L'amore basta, abbiamo pensato bene di recarci a Venezia per contattare la nostra Anna. Allora, buon pomeriggio. Oh, ciao cara. Intanto fa molto caldo qui a Lido, si muove e la temperatura dei film è alternata, corrente alternata, diciamo subito, perché intanto oggi passa, tra oggi e domani passa quello splendido lavoro di Eric Gandini, Videocracy, che ho appena penso visto. Tu abbia già parlato, e cosa condividi che sia un bellissimo lavoro. Sì, sì. Molto utile e molto funzionale, utile, ecco. E poi comunque anche fatto bene. E poi insomma, appena iniziato il festival, è iniziato ieri, quindi insomma, però già qualche cosa possiamo dire di aver visto. Ci sono tre film in concorso, sono passati almeno per la stampa. Il primo film è quello di Giuseppe Tornatore, Baria annunciatissimo, apertura, un film che io non ho amato per niente. non mi è proprio piaciuto, anche se posso riconoscere che ci sia una grande elaborazione nella messa in scena, in tutto quello che è la complessità, no, del progetto di 30 milioni di euro, non dimentichiamolo, produttivi. È un film estremamente lungo, ridondante, roboante, pomposo, autoreferenziale, un po' superficiale e così via. La storia di Bagheria, una tia di Tornatore, di origine dagli anni del fascismo fino ai giorni nostri. E quindi con tutte le traversie, con lo sfondo dei cambiamenti politici, ed è proprio su questo il punto, cioè la politica che da un punto di vista proprio delle idee manca ancora di profondità nel cinema italiano. È difficilissimo trovare insomma dei lavori che portino fuori i problemi veri, le idee, i fallimenti di uno o dell'altra corrente di pensiero, adesso non ho capito. Anche questo lo dico perché ieri sera ho visto un altro film di cui ho appena scritto, che è il nuovo film di Francesco Maselli, Citto Maselli, Le ombre rosse, una storia, ecco, io consiglio appunto nelle prossime puntate di sentire Citto, perché il suo film è ambientato in un centro sociale nel nord di Roma, quindi da sentire. Bene. Un film che magari adesso evito di parlare, però è importante da sentire, poi ne parleremo, sì, tanto esce sì, domani sì. Nelle sale. Okay. E poi cosa ho visto? Ecco, due i film che fino adesso mi hanno colpito sono un film egiziano di tal Yusur Nasrallah, un mio egiziano che si chiama Sherazad, Tell Me a Story, quasi 3 ore di lavoro, fuori concorso, bellissimo perché racconta con lo doppio sguardo la storia della condizione femminile in Egitto, che non è tanto soffocata da una condizione, notoriamente da una mancata emancipazione socioculturale e politica, ma più gravemente è condizionata e limitata da un'autocensura della donna nella sua processo di emancipazione. E quindi in questo senso anche dentro le mura succedono delle nefandezze e queste spesso non vengono denunciate. Eh sì, la maggior parte dei crimini contro le donne avviene proprio dentro le mura domestiche, insomma. Sì, però questo avviene in tutto nell'Occidente, così sì, però sì. In Egitto, come paese comunque, diciamo, tra virgolette, musulmano, anche se non è solo musulmano, però insomma la donna porta ancora il velo, no? In certe circostanze. Ecco, lì c'è un'evidente discriminazione sulla donna, ancora la donna non è emancipata sulla carta, ma spesso questa mancata emancipazione è dovuta proprio a una sua autocensura. E il film in questo senso lavora su questo, cioè una conduttrice televisiva di una rete commerciale che fa un talk show serale, lei molto emancipata, ha una casa che sembra nel cuore di New York, minigonne eccetera, non è una persona molto sofisticata, improvvisamente capisce la necessità di incontrare le donne, la condizione della donna normale in Egitto, e si incontra delle situazioni pazzesche che mette in scena invitando queste protagoniste a parlare in diretta dei loro problemi. Quindi c'è il doppio sguardo, perché c'è anche lo sguardo televisivo oltre a quello cinematografico, che si intersecano, tant'è che lo sceneggiatore di questo film non è lo stesso Nasrallah, ma è uno scrittore di televisivo, uno sceneggiatore televisivo. Questo è un film veramente, veramente meritevole. L'altro film bello che ho visto, e che comunque mi aspettavo bello, quello di Todd Solondz, ricordiamo, regista di Happiness, che fa un altro Happiness, comunque molto interessante. A me era piaciuto molto Happiness. Si chiama Life During Wartime, Lifestyle During Wartime, qualcosa così, se non mi ricordo. Una storia privata, disfunzionale, gente alla ricerca di sostanzialmente di relazioni umane, attraverso due parole chiave: il perdono e la dimenticanza. Infatti usano il gioco in inglese forgive and forget, che in italiano e, no, bello, grandi interpreti di bambini, insomma, tre film in concorso che usano molto la interpretazione dei bambini. Volevo dirlo perché è un film rouge piccolo, però e il film invece di Hillcoat, che ho visto ieri sera in anticipata per la stampa, si chiama Road, tratto dall'omonimo romanzo, non mi chiedere, non mi ricordo l'autore del romanzo, molto non mi è piaciuto, noioso, un po' anche un po' reazionario, razzista e anche post catastrofe, apocalisse, cioè anche un consiglio anche se dovesse uscire. Ok. E poi dunque queste sono le cose più o meno, ecco, che sono passate. Ora vedrò Masso, ma oggi ci saranno altri film così in arrivo. Speriamo che sia un bel festival. A volte si trovano comunque dei fiori, delle luci, no, nel buio, e quindi vale la pena mettere in evidenza. Qua. Bene, allora al prossimo collegamento, dimmi. Delle uscite, che cosa c'è? Che magari c'è qualcosa di cui. L'amore basta, La custode di mia sorella, Game, Le ombre rosse, Ricatto d'amore, Segnali dal futuro, L'ultimo Ultras, Videocracy e basta. Allora, Videocracy assolutamente da vedere. Videocracy, sottotitolo Basta apparire. Basta apparire, che mi sembra coerente. E, l'abbiamo detto che era stato censurato il trailer sulle TV e mi sembra anche sia Rai che Mediaset, che il film ha ragione. E poi anche da vedere L'amore basta, interessante. La custodia di mia sorella non mi è piaciuto particolarmente, quindi che sapete, e poi gli altri non credo di averli visti, non mi ricordo. Va bene. Va bene. Allora, alla settimana prossima. Ok, un abbraccio. Ah, ciao, Anna, ciao. Ciao. Riproviamo brevemente con Stefano Consiglio, vediamo se adesso prende e poi ci salutiamo. Siamo tornati in contatto con Stefano Consiglio, che mi hai incuriosito perché stavi facendo un discorso sulla più gli amori sono difficili, e poi è caduta la linea due volte. A questo punto ce lo devi dire. No, rimaniamo con questo dubbio. Aspetta, ecco. Aspettiamo un attimo che sta per finire. Senti, mi senti? Sì, ti sento. Tra Bologna, tra Firenze e Bologna, le gallerie. Continuo, sì, è una cosa continua. Mi senti? Sì, ti sento. Pronto, pronto? Noi ti sentiamo. Sei tu che mi sa che hai... Eccola là. Proviamo per un'ultima volta e poi al limite lo sentiamo la settimana prossima. Stefano, con tenacia, ci siamo ancora. Non demordiamo. No, dimmi. No, allora, guarda, sì, quello che volevo dire è molto semplice. A me il film mi sembra un film molto romantico, perché racconta la storia di amori che tanto più sono difficili all'inizio, perché appunto diciamo che un rapporto amoroso tra due persone dello stesso sesso c'ha diversi contrasti. Quando riescono veramente ad arrivarci, beh, è una cosa veramente molto potente. Per cui quella domanda che mi facevi sulle cose delle coppie aperte, insomma, ci tengono molto a preservare questo scrigno, no? Sì, eccoci. Ecco, questo volevo dire. Bene. Allora... E infatti, da questo punto di vista, ricorda un po' alcune cose di Roland Barthes, proprio, no? Mm-hmm. Frammenti di un discorso amoroso, proprio nel senso che più gli amori sono contrastati, e ormai, sai, i motivi di contrasto non sono poi più tanti, no? Quelli sociali si sono molto addolciti, sì, ci sono quelli religiosi, per esempio, oppure questi negati punti pregiudizi, e quindi quando riescono ad arrivarci, veramente ti trasmettono qualche cosa di molto potente, appunto. Bene. Stefano, allora, complimenti. Pronto? Io ti sento. Adesso anch'io, che mi hai detto, okay. Dimmi, volevi chiedermi qualcosa? No, ti volevo fare i complimenti per il tuo documentario e augurarti in bocca al lupo per... Ah, questi li accetto con un grande piacere. Crepi il lupo, e grazie a voi per avermi ospitato. E chissà che non ci risentiamo per la distribuzione. Assolutamente, il film esce venerdì nelle sale, distribuito dalla Lucky Red. Bene. Insomma, bene. Facciamo tutto il tifo. Faremo un bilancio allora, magari anche di come va in sala. Speriamo bene, molto va volentieri. Grazie molto a voi e a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio, Stefano. Ciao. Arrivederci. Ciao. Stefano Consiglio, regista del documentario L'amore basta. Noi ci salutiamo qui. Appuntamento è per giovedì prossimo, sempre alle 14, per Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema. Le informazioni sul sito www.ondarossa.info. Buon proseguimento.